ebolingo I I lisano e lisano e lisano e e bisengo e bisengo e bisengo ah ah bisengo ya la joie bolingo e bolingo e bolingo ah ah lisano e lisano e lisano I I bisengo e bisengo e bisengo e e bisengo ya la joie. Bolingo e bolingo, ah ah, lisano e lisano e lisano, I I bisengo e bisengo e bisengo, eh eh, bisengo ya la joie. Bolingo e bolingo e bolingo, ah ah, lisano e lisano e lisano, I I bisengo e bisengo e bisengo.